Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free, puntata numero 439, nella quale parleremo di sentenze pronunciate e gorilla parlanti, parchi infrequentabili e parti partecipati. Speriamo di avervi incuriositi. Dedichiamo questa puntata a Lea e Bobo, due cani da caccia che sono stati bruciati vivi nella notte tra sabato e domenica scorsa dal Baredo per San Marco, in Valtellina. Abbaiavano troppo, hanno detto, ma hanno anche detto che forse è stato un regolamento di conti tra cacciatori. Di oggettivo e verificabile c'è solo una dura realtà. Due cani usati per andare a caccia che, come ancora è molto diffuso tra i cacciatori, non venivano fatti vivere in casa, bensì chiusi nelle solite gabbie all'aperto, gabbie dalle quali, al momento del bisogno, non è possibile evadere. La proprietaria, nella giornata di domenica, ha trovato la gabbia totalmente incenerita con i poveri resti degli animali. Per ridurli così sono probabilmente serviti molti litri di combustibile. Sull'episodio indagano i carabinieri di Sondrio e noi siamo d'accordo con chi in rete ha commentato così: sia maledetto chi ha commesso questa atrocità vigliacca su dei cani prigionieri impossibilitati a difendersi, ma anche chi li ha tenuti rinchiusi in gabbie così piccole per usarli come strumenti per la caccia. Se quei cani fossero stati tenuti in casa, oggi sarebbero ancora vivi. Sono altri cani che stanno affrontando un momento durissimo. Si tratta dei cani di Yulin, il festival della carne di cane che si sta svolgendo in questo periodo in Cina e che pone varie questioni, oltre a quella dibattuta, ma in fondo purtroppo maggioritariamente accettata, del consumo di carne. I cani nel mondo sono considerati, a torto o a ragione, pets, cioè animali di affezione. E sono milioni le persone in questo pianeta che intrattengono autentici rapporti di amicizia e che convivono con i cani. Nella gerarchia del vivente stabilita dalla società umana, i cani si collocano dunque a un livello molto più alto rispetto ad altri animali come polli e maiali, ed è per questo che il festival di Yulin, con le sue scene di cani stipati in piccole gabbie e bolliti vivi, rappresenta qualcosa di scandaloso, di quasi provocatorio, nonostante sappiamo bene che questa sorte spetta a migliaia di aragoste, milioni di polli, tanto per fare qualche esempio, che non vengono nemmeno storditi adeguatamente prima di finire nell'acqua bollente per lo spiumaggio. Per non parlare delle chiocciole, che vengono bollite vive per quanto abbiano un sistema nervoso di tutto rispetto e dunque provino dolore. Anche attorno al festival cinese di Yulin, dunque, il dibattito animalista è rovente, ci sono posizioni diverse in campo, c'è chi ne approfitta per dare libero sfogo alla sua sinofobia, cioè al sentimento anticinese, ingiuriando le persone cinesi e sentendo di appartenere a una parte di mondo superiore e più civile. C'è chi rimarca che Yulin non è che un'altra faccia del carnismo e dello specismo e che sono queste le categorie mondiali da sovvertire. Cioè non è la Cina il problema. fino a veri attacchi ingiuriosi verso chi si attiva e si mobilita per salvare almeno una parte dei cani di Yulin. A noi sembra che tutto quello che si può fare sia giusto farlo e che a sensibilità diverse necessariamente corrispondono obiettivi un po' diversi e il movimento animalista, si sa, è plurale. Non può che essere così, visto che non esiste un movimento organizzato con una sua agenda mondiale che condivide le priorità. La mobilitazione cinese contro Yulin, quei coraggiosi ragazzi cinesi che assaltano i camion e liberano i cani, sono degni, secondo noi, di rispetto e vanno aiutati nei limiti del possibile. La notizia è che a Yulin sono attivi da anni anche dei volontari italiani. In particolare potete seguire la pagina Facebook di APA, Action Project Animal, hashtag attivisti nel mondo, e per fare un nome, il più noto di tutti è quello di Davide Acito, il volontario che ogni anno parte alla volta di Yulin per aiutare tutti i cani che riesce a sottrarre dal mercato della carne. Da Facebook abbiamo appreso anche che, grazie ai tanti aiuti ricevuti, è stato costruito un rifugio a Yulin, un rifugio italiano che si chiama Dog Village Island, un vero e proprio campo base di accoglienza per i cani liberati. Tutte le informazioni sono su www.actionprojectanimal.org, in inglese Action Project Animal. Imaginative ways, start your free trial today. Come on in the water's lovely look. You could meet someone you like. You're in the meat of your strike. It is that easy. Lunar surface on a Saturday night, dressed up in silver and white, with colored old grey whistle test lights. Take it easy for a little while. Come and stay with us. Si è concluso il processo di primo grado contro gli attivisti dell'associazione animalista Coordinamento Fermare Green Hill, che il 20 aprile 2013 avevano occupato i locali del Dipartimento di Farmacologia dell'Università Statale di Milano per documentare la vita degli animali vittime di sperimentazione. Sentiamo il servizio a cura della nostra Roberta Marino. Alla fine il verdetto è arrivato, lo si attendeva già il mese scorso, ma all'ultimo momento l'udienza conclusiva con la sentenza era stata procrastinata al 25 giugno. E così è stato. I tre attivisti Giuliano, Francesca e Cristina, ancora sotto processo per l'incursione agli stabulari di farmacologia dell'Università di Milano nel 2013, lunedì scorso sono stati condannati a un anno e mezzo di carcere oltre alle spese processuali, pena sospesa con la condizionale. Il pubblico ministero aveva chiesto per loro una condanna inferiore, un anno e tre mesi, con le accuse di violenza privata, occupazione di edificio e terreno pubblico e danneggiamento aggravato. Nella sua arringa conclusiva, invece, poco prima della sentenza, l'avvocata della difesa Maria Cristina Giussani aveva chiesto l'assoluzione, sottolineando che la loro azione aveva rappresentato un gesto di disobbedienza civile e un atto politico finalizzato ad abbattere un muro di silenzio e riaprire un dibattito pubblico, etico e scientifico sulla sperimentazione animale. Nella sentenza, in ogni caso, viene a decadere l'ingente richiesta risarcitoria che avevano preteso inizialmente l'Università Statale di Milano e il CNR, costituendosi parte civile, ma che nelle ultime tre udienze non si erano nemmeno presentati. Tirano così un sospiro di sollievo gli attivisti, che si vedevano prospettare una richiesta di ben 500.000 euro, come ha spiegato la stessa legale della difesa subito dopo la sentenza. Aveva chiesto un risarcimento di 500.000 euro per i danni vari subiti, la perdita degli animali, le ricerche interrotte, l'entrata degli attivisti, lo spostamento dei cartellini identificativi sulle gabbie e quindi la perdita di alcune ricerche, personale applicato alle ricerche e la perdita di pubblicazioni scientifiche o il ritardo di esse, quantificando tutte queste voci in 500.000 euro senza mai specificare poi. In dibattimento, secondo questa difesa, sempre non sono riusciti a dimostrare nulla e quindi poi da oggi a 3 udienze non si sono più presentate, sapendo bene la collega ovviamente che non presentando conclusioni oggi con la chiusura del dibattimento avrebbero perso la possibilità di ottenere qualsiasi tipo di risarcimento, che fossero 500.000 euro o che fossero 10 euro. Significa che non sono riusciti a dimostrare in dibattimento le richieste che avevano avanzato e in effetti in dibattimento non le hanno dimostrate, né documentandole né portando dei testimoni. Sulla stessa linea anche il commento di uno dei 3 imputati, Giuliano Floris, al termine del dibattimento. La condanna ce l'aspettavamo 1 anno e 6 mesi, siamo comunque soddisfatti del fatto che sia decaduta la richiesta di risarcimento danni di Università e CNR che, non presentandosi più, hanno dimostrato quanto le loro dichiarazioni post-occupazioni fossero buttate lì a casaccio, un po' come tutto quello che hanno prodotto anche durante il dibattimento, non sono stati in grado di dimostrare nulla praticamente. Spero sinceramente che adesso tutte le persone che hanno sostenuto l'università nell'attaccarci si rendano conto di come siano state prese in giro. Roberta Marino, corrispondente da Milano per Restiamo Animali. Where the beautiful people at? I said, where the beautiful people at? Beautiful people, clap your hands. Freaky people, clap your hands. Geeky people, clap your hands. Everybody, clap your hands. Hollywood is alright. Hollywood is free ground. Jealousy is gunfire. It makes you kill the vibe. To the hills, but you never know what's real, so you have to be prepared, you have to be ready, you have to be ready, cause she can be a bitch, and it's a wonderful thing, Hollywood, she's so seductive, she's got me looking for that dream, I bow down, she knows how to do it, exactly the way Hollywood is alright. Chain on my neck, little did they know, no sweat, so I dimmed out, rimmed out, and cracked the glass. 25 pounds, can you match the bag? Cause if not, raise up, I got a deal to make, and a couple bad bitches I've been aching to break, waking to bake, I put the cake on the plate, jealousy and me, or we making a date, I'ma vibe with this, Hollywood nigga, I'ma survive this shit, I do that, did that, blow your fucking wig back, for real, a gorilla, who loves going here? They wanna eye me down, tie me down, knock me off, but I'm a lion in the dog pound. Nah, that's serious. Hollywood is alright. Hollywood is pretty good. Jealousy is morta a 47 anni Coco, gorilla femmina famosa per avere imparato il linguaggio dei segni. È protagonista del progetto Coco, uno studio di comunicazione interspecie, il più lungo della storia, e l'unico che riguarda i gorilla. Curato dalla Gorilla Foundation, un'organizzazione senza scopo di lucro dedicata alla conservazione, alla protezione e al benessere dei gorilla e di altre grandi scimmie attraverso la ricerca e l'educazione sulla comunicazione interspecie. Coco era nata nello zoo di San Francisco nel 1971 e ha trascorso i primi 6 mesi della sua vita nella nursery dello zoo, dietro una vetrata, dove il pubblico poteva vederla, e dove è stata intercettata da Francine Patterson, all'epoca una studentessa dell'Università di Stanford, che chiese allo zoo il permesso di lavorare con Coco per il suo dottorato di ricerca in psicologia. Nel 1978 il National Geographic dedicò a Coco una copertina che la rappresentava intenta a scattarsi una foto allo specchio. Poi nel 2014 Coco fece di nuovo scalpore quando si venne a sapere che pianse alla notizia della morte del suo caro amico, l'attore Robin Williams. Per il suo 44esimo compleanno, non avendo avuto figli, Coco ha chiesto alla dottoressa Patterson di avere dei gattini. Le fu portata un'intera cucciolata e venne filmato l'incontro commovente in cui la gorilla letteralmente si innamorò di loro. «Sono i miei bambini», disse Coco con il linguaggio dei segni. La gorilla aveva un quoziente intellettivo tra i 75 e i 95 punti. Aveva imparato a usare oltre 1000 segni e capiva 2000 parole inglesi. Dati sorprendenti, considerando che il quoziente intellettivo medio per gli esseri umani è di 100 punti. Coco capiva i segni talmente bene da riuscire ad adattarli o combinarli per esprimere nuovi significati che voleva trasmettere. La fondazione ha annunciato che onorerà Coco con un'applicazione per la lingua dei segni con lei come protagonista. L'app andrà a finanziare progetti dedicati ai gorilla. Restiamo animali, vediamo in Coco un vivente incarcerato in uno zoo a cui è stato proposto un lavoro. Forse per la gorilla è stato più stimolante quel progetto che non stare a languire in uno zoo, e rispetto alla noia di una gabbia sempre uguale, la qualità della sua vita magari è stata anche un po' migliore, ma dovremmo avere l'onestà intellettuale di ammettere che Coco non ha avuto scelta. Nel caso in cui fosse stata poco intelligente e non avesse imparato la lingua dei segni, Coco sarebbe stata rispedita nella gabbia dello zoo dalla quale veniva. È stata quindi una forma soft, ma pur sempre una forma di sperimentazione animale. Non si può, in casi come questi, parlare di vivisezione, ma dovremmo vergognarci della nostra abilità come specie a devastare le vite degli altri animali. Invitiamo tutti a vedere il docufilm Progetto NIM, che racconta un altro esperimento condotto per insegnare il linguaggio dei segni a un primate, stavolta uno scimpanzé. L'esito è stato diverso, molto più tragico, ma il principio non cambia. Secondo noi, i primati andrebbero lasciati in pace nel loro habitat. Gli zoo e i progetti di studio che li riguardano andrebbero tutti sospesi per quel minimo senso della giustizia e del rispetto delle diversità che dovrebbe essere sinonimo di umanità. La rubrica di cucina Il pasto gentile di questa settimana sarà a tema. Stavolta il tosco vegan chef Gabriele Palloni dedicherà una ricetta a Coco, la dolce gorilla recentemente scomparsa. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. La ricetta di oggi è dedicata e ispirata alla memoria di Coco, alla sua dolcezza e alla sua unicità. Un doppio knockout come il suo nome, che mette al tappeto la violenza di molti umani che non riescano ad usare la comunicazione come mezzo per avvicinare, crescere e evolvere al fine di superare dolore e sofferenza. Una ciliegina dolce Coco tutta per te. Ecco la ricetta dei Coco Cherry Muffin. Gli ingredienti per 4 persone sono 100 g di farina di frumento tipo 0, 100 ml di acqua, 50 g di zucchero di canna, 25 g di olio di semi di girasole, della vaniglia, 5 g di crema or tartaro, un pizzico di sale, 4 cucchiaini di marmellata di ciliegie, 4 cucchiai di panna vegetale montata, 4 ciliegie fresche o candite, zucchero a velo. In una terrina unite l'acqua, lo zucchero e l'olio di semi. Aggiungete la farina, il crema or tartaro, il pizzico di sale e la vaniglia. Mescolate bene con una frusta e riempite dei pirottini da muffin con questo impasto. Fate cuocere a forno statico a 180 gradi per 25 minuti. Quindi fate raffreddare. Con la bocchetta di un sac à poche praticate un foro al centro di ogni muffin e farcite con la marmellata di ciliegie. Coprite la superficie con lo zucchero a velo. Quindi realizzate un fiocco con la panna vegetale, coprendo il foro e la marmellata di ciliegie. Terminate guarnendo con una ciliegia sopra il fiocco di panna. Primati, ma stavolta ne parliamo a partire dal loro habitat, le foreste. Il Parco Nazionale dei Virunga, sui monti della Repubblica Democratica del Congo, conosciuto soprattutto per la presenza dei gorilla di montagna, ha deciso di chiudere, almeno fino al 2019, a causa dell'alto livello di violenza nella regione. Violenza che sconfina quotidianamente nell'area protetta, insieme all'illegalità, con attacchi armati, bracconaggio, pesca abusiva, illecita produzione del carbone, traffico di animali. A farne le spese, oltre agli animali, sono stati spesso i guardiaparco. Negli ultimi 20 anni ne sono stati uccisi 176, di cui 6 tra aprile e maggio scorso, in molti casi per mano delle milizie Mai Mai attive nella regione orientale del paese. A minacciare la biodiversità del parco e la vita delle popolazioni del Virunga potrebbero arrivare anche trivellazioni petrolifere che il governo sta cercando di promuovere. Come denunciato ad aprile da Global Witness, una ONG che da tempo lotta contro la corruzione, il governo congolese è al lavoro per restringere i confini dei parchi nazionali di Salonga e Virunga, entrambi siti patrimonio dell'umanità UNESCO, in modo da far uscire dal perimetro delle aree protette le zone che interessano alle compagnie petrolifere. l'economia illegale che i ranger si trovano ogni giorno a combattere in quell'area vale, secondo alcune fonti, 170 milioni di dollari l'anno. Una partita enorme in un paese dove la popolazione vive sotto la soglia di povertà. Al parto, come evento sociale, tutto al femminile, non è una caratteristica esclusiva degli umani, come sinora era stato ritenuto. È quanto è stato scoperto dai ricercatori dell'Università di Pisa con uno studio pubblicato sulla rivista statunitense Evolution and the Human Behavior. La ricerca ha documentato il comportamento dei bonobo fin dalle prime fasi del travaglio. Durante il parto, sottolineano i ricercatori, le femmine di bonobo si stringono intorno alla mamma e mettono in atto comportamenti per proteggerla e supportarla, fino ad aiutarla a sorreggere il piccolo durante la fase espulsiva. Inoltre, gli scambi di espressione facciale, di vocalizzazioni e gesti raccontano una storia di intensissima partecipazione emotiva. Per la scienza, l'assistenza al parto è sempre stata considerata una peculiarità che distingueva gli umani dagli altri animali. E la spiegazione risiede nel fatto che il parto è stato reso difficoltoso dall'evoluzione, che ci ha reso bipedi e con un cranio molto voluminoso. Nei bonobo, però, l'assistenza al parto è presente anche se l'evento non risulta particolarmente complicato. Evidentemente, aggiungiamo noi, non è solo una questione di aiuto, ma anche una questione di significato. Le nascite, infatti, rinsaldano i legami sociali dei primati, esattamente come all'interno della comunità umana. I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Might have had your fill, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. Let me kick it like it's 1986 now. Might be over now, but I feel it still. We could fight a war for peace. In chiusura vi saluta la nostra redazione al completo, che è composta da Elisa Moretti, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi, che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 440 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.